In diretta dal bunker super segretissimo di Wikileaks, va ora in onda Opencast Alpha. Sights, it's Christmas time again. Fireplace, so it's Christmas time again. Trailer home grown, bring the ball I can. Christmas lights on, let the hound dogs in. Even though it's freezing, take a lazy boy outside. Grandma's sleeping in it, but she doesn't seem to mind. It's Christmas time. Well, it's Christmas time again. No one has much money, but we do what we can. Christmas is a special time. Our gifts are all named brands like Red Man, Copenhagen, Budweiser, Oscar Mayer, Marlboro, Black and Jeff, Ronco, Smith and Wesson, Red Man, Copenhagen. Glass everywhere, it's Christmas time again. Christmas time again. It's Christmas time again. Well, Red Man, Copenhagen, Budweiser, Oscar Mayer, Marlboro, Black and Decker, Ronco, Smith & Wesson. Red Man, Copenhagen, Budweiser, Oscar Mayer, Marlboro, Black and Decker, Ronco, Smith & Wesson. It's Christmas time again. Opencast Alpha numero 4, puntata numero 4. Siamo sempre presenti, siamo io, Coso e l'altro. Buonasera, sono diventato l'altro. Sei diventato l'altro. Tu sei diventato io. E io Coso. Tu resti Coso. Tu resti Coso e non ce n'è per nessuno. Siamo contentissimi di essere qua a presentare questa quarta puntata di Opencast Alpha. La numero 4. Ah no, 8. Cioè la quinta puntata. Allora aspetta, siccome la... Ogni volta, io adesso parlo con sindacalista, non è possibile che ogni volta facciamo sti casini perché dobbiamo partire da zero. Ecco. Non si poteva partire allora, da zero. Allora in che uno? Anno siamo? Siamo nel 2010. No, 11, perché si parte da zero. Cacchio. Allora questa è la puntata 2011 dalla nascita di Gesù Cristo. Okay. Cioè abbiamo fatto 2011 puntate. Sì, no, cioè se facciamo una puntata l'anno. Ma ancora da prima, dal Big Ben. Mi ricordo quei tempi, sì. Molto più tranquillo. E a proposito di Big Band, volevo salutare la Big Band di Casnate. Ho detto che Big si Band. Esibisce spesso. Ah, scusa. Scusa, ma è sei di casa tua qua. Scusi. Ma ci pagano? Potrebbero venire noi a farci degli stacchetti. Noi paghiamo per la sala prove idea. Però. Eh? Sì, stacchetti. Stacchetti. Sì, sì, assolutamente sì. Quanti sono? Quelle che volete. Cioè, 80? 80 sì, siamo, sì, sì, sì, sì. Ah, la formazione completa. Sì. Sì, 82. Ok. Sì. Sì, 82 perché c'è anche il signor Luigi, 94 anni. Una pacchina bomba. Stica. Sì, suona il clarinetto. Bene, allora... Così mi impara perché io non so dare il colpo di lingua. Guarda, quello se lo becchi sono... Lì sono problemi. Sono problemi, ma quello te lo posso insegnare anch'io. Allora, imparami il colpo di lingua. Sì. Dopo, quando io non guardo. Aspetta. Ecco fatto. Allora, bravo. Oggi di cosa vogliamo parlare? Non lo so, guarda, già Il colpo di lingua mi sembrava già il top della serata. Innanzitutto, questa è una puntata natalizia. Oh, jingle bell, jingle bell! E cos'è? Natale Algeria, jingle bell, eh? Oh, ognuno fa il Natale che vuole. Oppure un Natale do Brasil, jingle bell. Potevamo fare jingle... il Natale in Sudafrica, ci mancava Belen. Vabbè. Che facevamo? Sì, sì, ma io con lei lo faccio dappertutto il Natale, non c'è problema. Visto, lo sapevo. Ecco. Quindi, si avvicina il Natale. Si avvicina il Natale e le notizie saranno tutte di impronta natalizia. Sì, sì, tuttissime. Certo, assolutamente sicuro. Sì. Io ho wireless, una notizia si chiama Wireless e alberi di Natale. Ecco, parliamo di questi di Natale. Infatti, abbiamo scoperto una cosa bruttissima, veramente. Per noi che facciamo l'albero di Natale vivo, tenere in casa l'albero di Natale con la wireless accesa potrebbe essere un grossissimo problema, perché dei ricercatori olandesi hanno scoperto che gli alberi messi in una teca con dentro degli hotspot wifi avevano dei problemi alle foglie. Sì. Sì, cioè, quindi il problema dell'albero di Natale che è che cadono le palle con wifi. Cadono, ecco, sì, beh, in effetti, soprattutto sulla tecnologia G. No, comunque hanno detto che probabilmente era una bufala. Dicono che questa ricerca funziona sì, funziona no. Diciamo che dicono che... Ma chi l'ha detto? Un olandese, scusami. Tu immagina l'olandese cosa ne sa di piante, di wifi. Di alberi di Natale. Cioè, soprattutto quello pensa troppo alle foglie. Vorrei ricordare l'olandese che il pino non ce le ha le foglie. Esatto. No, già però c'era una curiosità bellissima alla fine di questa notizia. Che il servizio forestale degli Stati Uniti ha detto che le piante in città fanno fatica a sopravvivere perché il terreno è troppo duro. E io su questo aprirei un grosso dibattito. Assolutamente sì. Il terreno di casa tua com'è? È duro? Il terreno di casa mia stavo pensando, effettivamente non è abbastanza duro. Stavo pensando di fare una bella gettata di cemento e non ne parliamo più. Faremo con degli hotspot wifi. E vorrei fare anche io questo esperimento che mi sembra abbastanza intelligente, cioè chiudere un albero in una teca con magari 5-6 certo. router. Cioè, chi non ha questa situazione tipo in casa? Io l'ho fatto con una piantina di Maria. Wireless. Devo dire che funzionava bene. Chi è la piantina? No. Come? E non era il wireless però. Ah, ecco. E allora, invece proseguiamo su... Ehi, altre notizie. È arrivata una velina, scusate, è arrivato in questo momento. Allora, abbiamo una notizia sensazionale sul futuro sistema operativo di punta di casa Microsoft, Windows 8. Ah, pensavo si parlasse di CE. Windows 8 verrà presentato, molto probabilmente, non presentato, piano, verrà anticipato qualche dettaglio importante alla manifestazione che Windows e Microsoft più si meritano, che è il CES 2011. E qui finisce la notizia. Ma come, interessante. Come siete cattivi. Allora io per dare una mano a casa Bill parlerò di Windows Phone 7. Basta, drogato. Allora, casa Bill, Windows Phone 7. Abbiamo una notizia clamorosissima. A gennaio e febbraio ci saranno due bellissimi aggiornamenti di questo bellissimo sistema operativo per i cellulari, in cui per esempio col primo finalmente sarà inserito il copia e incolla e con il secondo forse, non è detto, metteremo delle basi per Silverlight, che è il cuore di Windows 7, che purtroppo ancora il sistema operativo non supporta, il browser di questo sistema non supporta Silverlight. Ma Flash? Invece mi sembra però un'ottima... col secondo forse. Ci sono buone probabilità che ti verrà fuori una scritta. Guarda, mi dispiace. Cos'era? Niente, sono le veline che arrivano con le notizie. Senti, a milioni. C'ho qua un piccione che... Vabbè, volevo dire... Ma non era morto. No, mi hanno portato un commento tramite piccione viaggiatore. Una comunità di crackers sono molto contenti della funzione copia e incolla, perché finalmente potremmo incollare i keygen nei programmi. Yeah. Presumo che ci siano anche su Windows 7 Phone, giusto? Sì, credo. Io pensavo che era una comunità di crackers. No. Cioè che ringraziavano per il burro. Ringraziavano per il sale. La marmellata. Si sentivano un po' insipidi. Te. Ma oggi è la puntata natalizia. Natalizia, bisogna parlare di cose natalizie. Sì. Microsoft ci fa il regalo di Natale. Ah, da via dei soldi. No. Cosa no, ci regala? No. Chiude 40 vulnerabilità. Ah, pensavo 40 fabbriche. Di cui, magari. Di cui. Okay. Beh, insomma, posti di lavoro. Fare 0, 1, 0, 1. E mettere dentro tutti quegli errori in 0 e 1. Non deve essere facile. Risolve con il solito aggiornamento che viene fuori il 14. È uscito proprio oggi. Risolve dei piccoli problemi che c'erano con Internet Explorer. 6, 7 e 8. Ah, una cosina da niente. Sì, ecco. Diciamo che ci hanno messo poco a risolvere. Perché non il 5 a questo punto? No, però comunque... Perché 5 funzionava, non si capisce perché. Funzionava. Comunque hanno dichiarato che, diciamo che circa l'80% delle vulnerabilità che vengono scoperte vengono risolte prima che il problema si diffonda. Meno male. Quindi le scoprono da soli. Qui, sì, scusa, non ho mica capito. Quanto? L'80%, quindi c'è un 20% di vulnerabilità che sono in giro, che vi stanno sminchiando il computer. Ciao, il tuo computer si è riavviato dopo una finestra di colore blu, come la tua bellissima camicia che porti oggi. Vuoi mandare una notifica a Microsoft? Che tanto lo sa già. Perché? Perché dovrei farlo? No, così mi sgamano, è craccato. Ecco, esatto. Vuoi mandare una notifica così ti sgamano? Ovviamente non violeremo la tua privacy. Sgameremo il tuo sistema operativo e ti daremo come soluzione. Comprati una licenza, vedrai che funziona tutto al meglio. Può essere. Ma io avrei. Scusi, signore, funzioni. Mi dà due etti di licenza? Guardi, purtroppo è finita. Se vuole le do del prosciutto cotto. No, perché io avevo Windows XP craccato, ma non si può regolarizzare. Guardi, non lo vendono solo, più. Ho solo del prosciutto cotto. No, però c'era un bel programma interessante di denuncia. Di denuncia? Da sì, solo ti denunciavi. Se tu denunciavi qualcuno che aveva Windows XP craccato, no, ti regalavano una licenza. Windows XP? Sì, sì. Ma sì, devo sì, dargli la tua mail oppure basta il tuo codice fiscale? Sì, ma no, era una cosa, era una genialata, perché tipo lo dovevano fare i negozianti questo lavoro. Vabbè, no? Allora mi negozio. Sì, chiaramente tutti hanno interesse a fregare i propri clienti. Bene, ma... C'era la coda. Ma a questo punto, visto che è una puntata natalizia, vogliamo salutare Babbo Natale? Ciao Babbo! Ciao Natale! Va bene, vedo che c'è stato molto feedback sul ciao Babbo Natale. Vabbè, stavamo aspettando che arrivasse. Ah, sì, allora, ma noi aspettiamo. Poi leggeremo aspettiamo la lista dei desideri a Babbo Natale. Certo. Caro Babbo Natale! Dopo. Ma prima, io proporrei un brano natalizio, se ce l'abbiamo. Così, subito d'amblè. Sì. Allora, la butto lì. Va bene, andiamo. Ma per forza natalizio. E certo, siamo sotto Natale. Già il pezzo di apertura era un pezzo natalizio. E si chiamava? Si intitolava Christmas Time Again. Christmas dei Fats Pantry and the Have Nots. Yes. Un pezzo in Creative Commons di cui troverete tutti i riferimenti sul sito del GL Como. What's a banana? www. E invece il prossimo pezzo che il nostro Coso. Coso. A gentil richiesta. Esatto. Lo chiameremo Coso. Tutti coso stasera, così? Coso. Il pezzo che sentiremo di... Elvis Presley. Voglio dire, il pezzo di Natale che sentiremo adesso ha un titolo così innovativo, è It's Christmas Time Again. It's Christmas time again, you better be good you better not sin. Santa knows when you've been sleeping and when you're awake. And it's Christmas time again, the snow is falling in. The things other kids tell you, but Santa's a myth and that he doesn't exist. 'Cause he's a real one, a real fat and jolly one, and he's bringing your toys to all the world. It's Christmas time again. You better be good, you. Again, you better be good, you better not sin. so you better be. Opencast, il podcast con aggiunta di vitamina E. Che cavolata. Ma forse anche C. Non so. Cioè, è così, è stata aggiunta, non è che... Cosa ti avevo detto io? Delle cagate, non facevo dove meglio a non chiederti allora, niente. Allora, dove c'è Opencast, c'è casa. C'è era vitamine dall'A allo zio? No. Vitamine dallo zio, non va bene. Dallo zio. No, dobbiamo cioè, rivedere un attimo allora questo... questo sparata all'autore. Ma bella questa canzone, come mai il titolo era Christmas Time Again? No, no, no, no. Quella era quella di apertura, Christmas Time Again. But again? Again. The title is the same again. No, è diverso. Never be the same again. È diverso. Never be the same again. Coperta da copyright, ma i primi 4 secondi possiamo cantarle. Siamo una boy band. Again. Certo. Again. Again. Comunque, quella di apertura è Christmas Time Again. Questa è diversa. Questa è It's Christmas Time Again. Ah, ok. Ma sono gli stessi. No, un altro gruppo. Ah, meno male. Okay, guys, what about the next news? Okay. Without any official communication, Apple removed the function from an operating system iOS that allow aspetta to che cambio l'audio del check the jailbreak of telefono, del vostro telefono. Ok, quindi ricapitolando, senza alcuna comunicazione ufficiale, Apple rimuove le funzionalità del sistema operativo che consentono di rilevare il jailbreak del telefono. In cosa sta questa notizia? C'è anche in giapponese. Se vuoi lo metto anche in giapponese. Mettilo in giapponese. Sta questa notizia sta nel fatto che... Lo posso mettere anche in sanscrito. Antico. Antico. Prova, prova. Assomiglia al tedesco. Ma perché Kartoffen si dice nello stesso modo? Sì, perché hanno una stessa parola. Rimetti in italiano. Dai, la faccio fatica. Senza quindi alcuna cosa. Quindi, che per finire questa news, diciamo che è tutta convenienza di Apple fare infatti, questa mossa. Infatti. Certo, è stata una notizia molto interessante. Dovremmo lasciarlo così dovremmo per la prossima lasciarlo. Puntata. Tutto in sanscrito lui. Sì, antico. Sì. Antico. Sei antico. Molto antico. Molto antico. Te ragazzi, ho sentito di quelle cose. Attenzione, me la sono letta, l'altro giorno. Telecom arriva a 100 megabit a Torino. No. Sì, in centrale? Esattamente, non ho capito se arriva in treno o con l'autostrada. Non lo so veramente. Rossa. Milano Traforio, non lo so cos'è che fa, un po' se arriva con l'elicottero. Vogliamo, ma perché mi sembra che si stava parlando prima di un collegamento col tecnico Telecom a Torino. Ma adesso proviamo a sentirlo. Va bene, proviamo, vediamo se c'è il collegamento. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, Telecom, sono Mario, buonasera. Sì, salve Mario. Noi avevamo telefonato per avere delle informazioni su questa notizia di Telecom e i 100 megabit a Torino. Guardi, in questo momento non è passata alcuna circolare all'interno, però ho sentito anch'io di questa notizia e le posso assicurare che sì, c'è una festa aziendale, quindi probabilmente una festa aziendale sì, è già Natale? Sì, probabilmente verrà fatta questa notizia anche all'interno. Lei, ma, scusi, dov'è che l'ha sentita? No, io l'ho sentita così, ero in bagno e sa, la gente passava e parlava di questa cosa. Quindi in bagno dice così posso scaricare più velocemente. Esatto, esatto, esatto. Sì, capisco. E capisco. Avevo sentito anche di questa cosa delle micro trincee, per cui l'impatto sulla città sarà bassissimo. Farete degli scavi di pochi centimetri, profondi solo 30, per poter portare tutta questa fibra ottica in giro per tutta la città. Ma non guardi, avete paura che poi la gente scava per tirar su la fibra? Ma guardi, la gente c'ha allora, la gente, dobbiamo chiarire una cosa: la fibra non serve per il download più veloce, perché capisco che mangiando più c'è più fibra c'hai e più ti scarichi velocemente. Ma però le cose non sono correlate esattamente, bisogna far capire alle persone che la fibra è una tecnologia atta per il download più veloce su banda HDSL, DSL 2.4.5.3 e quindi in futuro noi pensiamo che non ci saranno questi problemi. Noi puntiamo molto sulla cioè sulle persone che insomma confidiamo molto nelle persone. Poi questi 30 centimetri comunque dovrebbero essere sufficienti, insomma non penso che uno si metta con il martello pneumatico a spaccare la città per tirare su un poco di fibra. Vabbè, ma col costo anche che perché adesso... con quello che insomma basta che te ne vai a una farmacia e dici guardi io mi scarico una pofa di fibra per cortesia se può, ecco. Capisci? No. Mi hanno detto che venne usato anche il protocollo Activia per velocizzare ancora di più. Ma sì, guardi, noi eravamo partiti col protocollo Activia, adesso stiamo prendendo dei contatti con degli artigiani della Mongolia centrale, i quali sono dei produttori di un protocollo yogurt freschissimo, il quale provoca dei download che vanno al di sopra dei 100 megabit, o meglio, più che superare i 100 megabit, abbiamo un 100 megabit abbastanza costante più volte al giorno. Ecco, più volte al giorno lei ha la possibilità di scaricare quello che le interessa. Quindi, intorno a questa scusi, facendo. Quindi non ci sono più questi intoppi della banda, diciamo. Ma guardi, assolutamente blocchi, no, grazie a questo nuovissimo protocollo, rivoluzionario secondo noi, e quindi questo è quanto. Noi bene, la ringraziamo veramente. Se vuole salutare, vuole fare gli auguri di Natale. No, grazie, arrivederci. Voglio salutare la famiglia. Andata, guarda che arrivo stasera. Non ti preoccupare, fammi buttare la pasta e ci vediamo dopo. Ciao. Grazie ancora al tecnico Telecom e noi andiamo avanti. Bene. Direi di passare, è una notizia importantissima perché voglio dire che cambierà molto la vita dei torinesi. Quelli i torinesi che possono permetterselo. Chissà chi sarà mai. Non lo so. Cagato. Beh, chi? Saranno, secondo me sarà qualcuno di quelli che gioca online. Uno di quelli che hanno fatto felice la Blizzard, che in 24 ore ha venduto 3 milioni e 3 di copie di World of Warcraft Cataclysm. Cataclysm? Catalizzato? Ah, ma quel gioco lì, non quello lo so, tutto online. Sì, quello. Non hai una vita reale? Ce l'hai ma non ti piace? Abiti in Svezia, in una piccolissima casa raggiunta soltanto dall'elettricità, un poco di riscaldamento, ma hai la linea telefonica? E allora è il caso proprio di farsi una vita parallela. Gioca anche tu a World of Warcraft. Potresti diventare un personaggio super strafichissimo che scassa le facce a tutti i mostri presenti nel regno di Ibernia, piuttosto che nel regno di Wallalla, piuttosto che nel regno di Sa. Prova? Nel regno di prova? Prova, scusate, ci abbiamo una saturazione di microfono. Ma tu andare avanti senza fermarti. Senza no. Fermare. Tu, ma che non hai questa vita reale, tu che no, ti freghi dei problemi del paese, trasferisciti sulla sedia poltrona comodissima di casa tua con Ikea. World of Warcraft. Si consiglia di acquistare un monitor con tecnologia 3D 120 Hz più occhialini per immersersi completamente nell'esperienza. Sponsored by Nvidia. Ma ti pagano? No, infatti, però allora, magari, cioè, magari, dire, una cassa magari una cassa ce la mandano. Una cassa di birra? Una cassa di... qua te arriva la cassa. Guardi, una cassa di video, non lo so, magari potrebbero... No, sono felice, ma che cos'è questa Blizzard, notizia? È un gioco, cos'è? Sì, sì, si parlava del fatto che questo videogioco ha venduto un casino quest'anno. È un gioco, giù. Beh, però la cosa interessante della notizia è che è un po' in controtendenza, perché in questo momento stanno vendendo moltissimo i videogiochi da console, mentre il mercato PC è parecchio in crisi. È parecchio morto quasi. È parecchio morto, e questo è uno dei pochi giochi che riescono ancora a vendere. Anche gioco ancora con Tux Race, io. Sì, è il mio gioco preferito. Grande. Si vede appena dopo, però scusa, non il primo è Blood The Chosen, certo, grande titolo del 1996, vogliamo ricordarlo? No, non vogliamo, andiamo non avanti, vogliamo ricordarlo, e quindi comunque... il PC sta morendo, ragazzi, sotto il profilo ludico. Meglio così, che dire, giocatevela sulle console e non ci rompete le scatole. Peccato, sì, capito, ma con la console come fai? Devi avere il cavo, oppure ma puoi sì, giocare ma solo che a casa. Ci attaccano ci vorrebbe un alimentatore esterno, uno che ti porti in giro. Allora, ci vorrebbe un amico, meno male che tu non ne hai e stai lì tranquillo. All'interno di questo frangente vorrei dare una sottonews, una subnews sulle console. C'è Sony che ha brevettato un processore esterno da attaccare a PlayStation 3. Un processore esterno. Probabilmente verrà aumentata. Questa roba la faceva Intel ogni sì, tanto. Sì, la facevano forse ancora prima. Drogati proprio. Roba stravecchia. Sugli beh, slot. Insomma, sì, è roba del genere. Probabilmente potrebbe esserci un futuro con una PlayStation 3,5, 3,5. E ma questo fatto attraverso il processore appunto, sarà USB, magari sarà una scatoletta da che si attacca a una porta USB, ma non lo so se è USB Wi-Fi. Però hanno brevettato questa cosa, magari non lo utilizzeranno mai, ecco. Meno male, No, dico, sarà anche il caso, in effetti. Comunque, io volevo parlare invece di un'altra cosa. Ah, ma ci dica. Le pile umane. Le pile umane. Le pile io umane. Capisco ci sono che uomini... le pile siano un po' fredde. E... Sì, anch'io ho sempre avuto questa... Un po' al di fuori della società. Esatto. Allora, però se adesso diventano umane... Di umanizzarle. La Fujitsu ha inventato sta roba che... La? Fujitsu. La? Fujitsu. Oh! E scriviti anche tu a corso di... Fujitsu Siemens. Oh. No, questo è il laboratorio, yes. Ah, ok. Comunque, non c'entra nulla. Allora, ah no, era Jiu-Jitsu Siemens, scusate. Comunque hanno inventato ste pile che producono corrente dalla luce e dal calore umano. E adesso perché stanno... tu emetti luce, scusa. Ma io l'ho già visto in Matrix. Ma guarda, tu ti che... fai i cavoli tuoi. Io emetto quello che voglio, va bene? Scusa, per esempio, scusa. Adesso io sto emettendo. Va bene, va bene. Questo non è molto rassicurante. No, infatti. Così però se fa già più caldo dentro qua. Sì, in effetti sì. Stasera si faceva un po' fresco. Sì. Meglio che metti tu che nel qualcuno caso che mi dovessimo fattura. Svenire e qualcuno ci potesse ci venire a salvare. Ricordiamo grazie. Sempre che stiamo trasmettendo dalla caverna segreta di WikiLeaks. Comunque, ste cavolo di pile umane, sti aggeggi avranno la possibilità di produrre corrente e potranno essere utilizzati come alimentatori per alimentare i nostri bellissimi dispositivi, gadget e quant'altro. Prenderanno l'energia sia dal nostro calore sia dalla luce, non la nostra luce, non la nostra luce, non farlo Loris, non farlo Loris, sia dalla nostra... Noi non abbiamo luce, non mi fare dire cavolate. Ah. Spegni tutto. No. È impazzito. Ha staccato il frigorifero. Non c'è la festa. Grazie. Basta. Cos'era sta roba? Eh? Scusa. Cos'era sta roba? Gianna. No, perché... No, devi vedere vicino al microfono. Hanno alzato... Aspetta, No, perché stavano attaccando il frigorifero nella... sì. Un attimo. Pronto? Sì, punto. No. Allora, sì, per la festa, va bene, voi attaccate il frigorifero, guardi, il contatore dura un quarto d'ora. Sì, potete attaccarlo al frigorifero. Va bene, sì, spegniamo il server, va bene. Ragazzi, stiamo per spegnere il server, affrettatevi a scaricare Opencast 4, quarta puntata. Mamma mia, non l'ho mica capita questa, sinceramente. Comunque, è drogato, ragazzi. Era drogato. Un diversivo per perdere del tempo. Ah, ok, giusto perché. Tanto così, siamo mi sembrava che stasera. Siamo un po' troppo larghi. Ma sì, vai tra, stasera ce la scialliamo proprio. Bella di padella, zio, Ci stai dentro l'ampione acceso. Mizzeca. Super bella. Comunque, domani non ci saranno più le pile, ci saranno sti maglioni che produrranno corrente. Ma guarda, che mio sei già... elettrico. Lasciami stare, guarda. Il mio già ne produce a motore, appena tocco la gente... Mai d'estate? Devo solo capire. D'estate com'è. Sarai in giro col maglione. Vuoi il computer? Che cavolo vuoi? No. Ma magari cioè, te lo attacchi nel senso il calore corporeo. Tanga. Però io ho sentito anche dire su questa notizia tanga. Che probabilmente sarà ridotto al che ne so, potrebbe alimentare un orologio, ma difficilmente già alimenterà. No, ma dipende uno da quanto smart. Da quanto vabbè, sudi. Dipende da quanto è grosso quello che ti metti. Se tu hai o da quanto sei grosso tu che ti metti qualcosa. Esatto. Cioè che ne so, c'ho un mio amico che pesa 180 kg e soprattutto magari pesa tanto ma ha poco spazio. Io me lo vedo già con addosso tutti i cellulari di tutti gli altri amici. Esatto. Oh, mi dai il mio? Sì, grazie, me l'hai caricato. Perfetto. Se non suda come un porco non credo che funzioni. Perfetto. Cioè deve mettere anche tanto calore perché se è morto non questa è bioenergia. Bio. Energia. Quindi il futuro ragazzi, compratevi una bella confezione di fagioli. No, quello è un altro tipo di bioenergia. Energia. Non credo che ti puoi portare. Perché dobbiamo essere dipendenti dal Gazprom russo quando possiamo crearcelo da noi il nostro gas? Ma io ogni mattina mi sveglio e produco gas. Lo imbottigli, lo metti nella bombola. Dovresti cominciare. Lo libero nella camera, però dovresti poi cominciare molto velocemente la porta. Con questa puntata volevamo comunicarvi che il podcast, l'ecologia è possibile. Il podcast ha preso una bruttissima piega. Sì, direi che è un declino. Un declino totale. Questo... Vi invitiamo come al solito a mandarci dei feedback tramite il sito. A anche insulti indicarci a Loris. Cosa preferite a proposito di argomenti trattati. E di salutare Fabio perché c'ho tanto bisogno. Grazie. Salutate Fabio, poverino, è da solo. Molto gentili. Sì. Quindi possiamo chiudere qui. Ma sì, no, quindi ragazzi. Prima di chiudere. Ciao. No. Ah no, è vero, prima di chiudere dobbiamo leggere la lista a Babbo Natale. Ok. Perché è puntata natalizia. Leggiamo la lista di Babbo Natale. Vai, comincia tu. Caro Babbo Natale, visto che quest'anno sono stato buono, smettila di agitare il mio foglio. Così capiscono che c'è la lista. Ho capito, ma non leggo. Stai fermo. Sì, sì. Allora, caro Babbo Natale, visto che quest'anno sono stato buono, gradirei ricevere le macchinine della Hot Wheels. Per favore, in confezione da 8. Grazie. Con la pista e anche la pista dei pinguini, se ci siete. Perché mi sono stancato di giocare a Tux Racer. Voglio i pinguini veri. Grazie. Nel caso ti dovesse avanzare spazio, portami un fucile per uccidere mia mamma. No. Allora, perché? Allora, cioè, ognuno ha le sue, va bene? Perché? Oh, perché? Sono stato bravo tutto l'anno, almeno a Natale. 5 minuti. 5 minuti. Ok. E se ci sei, già che ci sei, un'accetta. Non lo voglio sapere, ma lasciamo perdere. Grazie comunque, grazie. Prego. Tu avevi delle... Avevo una lista un po' più normale. Fai sentire la lista. A questo punto mi vergogno anche di leggere. No, fai sentire la lista. Allora, io vorrei Donkey Kong Country Returns per Nintendo Wii, perché ho giocato Didn't Cast Donkey Kong per la Super Nintendo. Quando andavo in vacanza in Calabria, che avevo 7 anni, c'avevo il Super Nintendo con un gioco solo, quindi quello c'era. Super Nintendo, quello giochi. E come diceva mia zia, che sto passo usando, se vuoi questo ti giochi e finisce qua. Altri giochi non ne compriamo che costano troppo. Poi volevo chiedere, già che ci sei, Babbo Natale, anche una Nintendo Wii per far girare Donkey Kong Country Returns, perché sennò non so. Già che ci sei, insomma. Già che ci sei, poi se con la Wii mi porti anche il controller, perché io penso che la politica Nintendo ultimamente sia quella di vendere le Wii sciolte. Magari lo trovo nell'uovo di Pasqua il controller, però ci potresti giocare prima. Cioè, devo aspettare fino a aprile, che cavolo. Poi anche l'accetto, perché sennò mi vuole il controller e scasso il nuovissimo televisore che ha comprato mio papà, che tra l'altro è a LED e mi sembra già una carta da scala 40, e ho paura che appena lo tocchi fa qualche cosa che non va. Crack. Ecco, esatto. Poi vorrei tanto che portassi le DirectX anche sulla PlayStation 3, così magari esce qualche gioco un po' più decente. Se puoi far abbassare i giochi, caro Babbo Natale, delle console, perché sennò poi li piratano tutti, non per altro. Pensavo perché erano troppo in alto. Costano 70 euro. Poi vorrei che le persone giocassero un po' di più ai giochi belli come Donkey Kong Returns tranquilli, piuttosto che giocare a Black Ops, che sono tutti in giro che se la tirano, ma alla fine sono sempre giochi di guerra. La gente si spara, si ammazza, se ne comprano tanti. Perché? Buon Natale a tutti. Last Christmas! Avete ascoltato Pencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Santa's coming, so you better be good.